vicino a Cassola, e sai quanti televisori grandi ci sono, tipo Philips e Celani, lampanti che non c'hanno niente. Ah sì, te le cari chiudono, te lo porti a casa e lo accendi. Ui, adesso un po' questo acqua di Madonna. Ma come mi sono rifiutato per l'altro? Mi hai parlato per il zoma, che... Passo, mi dispiace se ti ho sbagliato, No, ragazzi, io... No, non lo stavo dormendo, lo stavo riposando, più che dormendo. Ecco, ho fatto il breco. Ciao da K2, ascolta, volevo chiedere una cosa. Avanti, chiedimela. La lancetta del baracchino, cosa è salire e sta scendendo, cosa devo fare? Sono da ieri mattinandomi la testa. Picchi negativi, sono picchi negativi quelli, loro c'è qualcuno attaccato. Tipo un aiutino. No, niente. Niente. Sia il cavo interrotto in qualche punto. Sì, è un aiutino che non sta scaricando bene la massa, o il cavo che non sta scaricando la stessa massa bene. Ascolta, l'alimentatore non può centrarci nulla, no? No, l'alimentatore, che alimentatore è? Quanti ampere c'ha? 10 ampere. 10 ampere. Qui c'ho un rosmetro, cosa vuol dire F.S? Com'è? Scusa? Allora, nel display del rosmetro c'ho una scala dove c'è scritto FAT e sotto una linea dritta dove c'è scritto F.S. Ma la scala cos'è? Era quella? Quella che ho, l'ultima che ho detto, sì. No, ecco, cosa fa? Fratellino sopra quel rosmetrino? No, niente. C'ho quella da girare, due pulsanti. Una con che c'è scritto 10 watt FWT e una 100 watt WRF. Guarda, quel nome ci ha attaccato un antennino al lato. Un antennino piccolo. No, è possibile, questo non è. È un K145. E allora ci manca perché questo è per misurare. È nera e va da 1 a 3 e dopo da quella rossa che va da 2 a 10. Da Marco. Prova a vedere di nuovo il toccato. E quanto ti segna tu misurando le stazionarie? Non ho capito le stazionarie dove le devo controllare. Quello che ti ho chiesto poco fa, S.S. va da 0 a 10. Ascolta, quella è la scala della normetria. Deve fare una cosa, dimmi i pulsanti, tutti i nomi di lì dei pulsanti che ci sono, che un pulsante dove c'è scritto SVR? Sì, e quello lì adesso ce l'ho su PVR. Ecco, allora se ce l'hai PVR, quello tu schiacci la portante, con quella monopolina che c'è, lo mandi a fondo scala a 10, e poi schiacci verso SVR. Sì, mi sorpassa anche 10. Facendo così, ma non ho sentito la portante, io devi tenere la portante schiacciata, mettere nella prima posizione che è TFVR, poi quando mandi con la freccia a fondo scala, sempre tenendo premuto, lo mandi in SVR. Ecco, guarda, adesso è in PVR, adesso è in SVR e mi sta segnando, sorpassa tutta la scala. Ecco che morre, ecco che morre, ecco quello che ti ha preso qualcosa di qualcosa. Qualche morto, ecco che è morto, ecco, ti ha preso qualcosa di qualcosa, ecco il colpo, il colpo di qualcosa, ecco il colpo, il colpo di qualcosa. Ma quello è morto! Ecco come ti ha preso colpo di qualcosa, ecco come ti ha preso colpo di qualcosa. Io vi vedo e da molto lontano. Ora perché tu sei scendi? Non ci credo, io vi vedo col binocolo. Dilla che sto salendo immediatamente. Forse qualcuno che ha detto che come ti ho sentito io mi vedo col binocolo. Hanno detto io mi vedo a 380 Lilli, a 380 chi te l'ha detto? Allora sono 3 menti No, 4 menti sono, 4 menti. Sicuro, come tolto fuori dal letto il piedino me l'ha congelato. E io lui te non mi sono alzato in cui, a chi matti so devo alzare in cui alle ali fritto. E se, mi hai sfatarrato tutto quanto. Buonasera Quella, qui è Radio Tornado che parla. Previsione del tempo, attenzione, su piazzale segni. Monello, Monello, for Pacchetto, vede all'alto da lontano. Pacchetto, guarda che mi siedo in via il mio, Vengo lì, ne dico quattro. Oui, si può pli, thank you very much. Insomma, lo superavi il segnale, poco il segnale, ma che radio te la batteva, La mia mi batteva, non ci credo, non ci posso credere. Siete rimpiazzo dei segni. C'è Gianni, Massimiliano, cognato e Mario. È solito Mario, Mansell? Papa di positivo. Vabbè, già li sento a volte. Ma, chissà cosa ci sono di Zenni. Mi fischiano tutti gli orecchi. Io sono senza mangiare perché non Insomma, mamma mia, come sto. Comunque, dai, a parte gli scherzi, la glicemia deve stare sempre sotto controllo, perché sono cose serie. Ma e se questi stanno urlando qualche... Prova a dare un'occhiatina, mi sposto un attimino la tenda dalla finestra e vedi se stanno urlando i ragazzi. Mi sa di sì, qua si urla forte. Su che si urla? Cazzo, mi ha silenzio, cazzo. Il silenzio di oltre tocco. Un discorso molto serio, perché starsi zitti è importantissimo. Ecco, senti caso mi attacco di mandibole, senti, ciò. No, ma che... A me mi è nascitato Pierpaolo. Mamma mia, senti questa voce, ma chi è? Che bussa la porta? E chi sei, sì? Succhiamo! Non ti intere ad aspettare te. Ah, io te avevo un patteggino. Ah, io vai dare, vero, vai dare. Tu ti hai coperto di brutto, eh? No, pari Frogero Giuseppe. Mi dico di quella uno, dimmi cosa c'è. Sentito Giuseppe. No, io ho sentito a Maichetto, Giuseppe sono io. Sì, un colpo di lapso, Sammy. E poi dicono che sono io che mi faccio le parole. Quello è Gesù. L'aria di qua su è lì, è contagiosa, E Frizzantina, l'aria di mia Frizzantina. Allontanatevi da Piazzale Segni un pochino sulla vostra destra andando. Siete più al Positivo Massimiliano, ti ascolto. Zitti di Crocco. Massimiliano. Cos'è Massimiliano? No, no, no, vi può portare, te lo fa vedere. sono uscito in macchina, proprio a farlo. E che deve fare l'antenna, che ho una chiamata del segreto nuova nuova? Non lo so, no. Ma che? Prendi le trombisine. Non fa bene, ho preso. Oh, la moletta, la moletta. Zitto! Non si è capito, ma somiglia. Cosa? No, là, che stavo parcheggiando, là, che mi saluta tutti, capito? A che ora è arrivato, sì, va, è che è arrivato, non è detto. Andiamo piano piano. Ma, Gesù, si è già arrivato, è che aveva un me. Cazzo, è che è passato un minuto va in bocca. Ma sta scherzando? Cazzo, sono sceso a 40 km orari. Sì, è malettone, diceva l'altro. Negativo, prego, negativo, guardate qui sul mio rosmetro personalissimo e Massimiliano sta scendendo esattamente a 52 km all'ora. Bravo. Sì, dai, un parcheggio da parte mia. Ci sentiamo, buonanotte a tutti. Ciao, ciao, Massimiliano, ce la riascoltiamo una mattina, dai. Ciao, buonanotte anche a Davino. Salutalo, ciao. Ciao, buonanotte a tutti, buon proseguimento. Ci lasciamo. Ciao Massimiliano, ci sentiamo domani, dai, buon tutto e buonanotte. E saluto anche l'amico o il cognato, se non ho capito male, che hai a fianco, dai. Ci risentiamo presto, avanti qualche. Ciao Massimiliano, buonanotte, buonanotte anche alla Vico che c'è a fianco a te e ce la ascoltiamo tutta domani se coincide. Ciao ciao. Ciao, ma non ho compreso che c'è a fianco a me, però. E cosa ne so qui io? Allora. Ah, solo sì. Ehi, meglio solo che me l'ha accompagnato. Già, non credo giallo. Marchetto, controlla bene, tira la tendina alla finestra e controlla se dice la verità, cappa. Un brasiliano, ciao vicino. Attenzione, Marchetto, hai sentito cosa ha detto la diavola? Viaggiano i trans la notte. Ai ai, ai ai. Giuseppe. Avanti. Vento, e adesso sto facendo la deframmentazione del disco pisto e la metto là. Sanremo tutto. E ce la riascoltiamo domani. Non è per il posto, sono stanco, capo. No, dai che questo, qualche lavoratoretta ce la tiriamo. E così chiudiamo in bellezza, perché anch'io sono qui un figlio mi. Cappa cappa. E allora aspettiamo la prevedoretta, dai, e poi si vedrà. E tanto mi fa che domani e domenica facciamo un su che andiamo e via, e poi chiudiamo le trasmissioni, mettiamo la sigla di chiusura e via. Cappa di Roggero, cappa di Roggero. Però avevo, quando cioè, ho chiuso, io avevo sempre l'apparato acceso, ero sempre l'ascolto, anche se sono andato in EcoRX. Chi si chiama le luci in capo? allora, ma noi siamo un poco riparati, non assai, no, ma un pochettino riparati già lo siamo, dai. L'importante è tenere le mani libere, uno alla chitarra, uno al basso, l'altro alla batteria. No, e facciamo il concerto. Cazzo, così da rivedere i carabinieri, i cazzo di carceghe, i colleghi. Ehi, io. Comunque, su che andiamo, vela? Prende sopravvento, Giuseppe. E vedete sopra che è in questa macchina, vela, succhia, andiamo. Ma che Mario, è Mario? Ma fateci Mario, dai, te ne sono guardando, almeno Mario ci tiene compagnia, mannaggia. Mario Mansell, SGC, ma tu colpo. Mario, Mario, Mario, Mario. Dai, sì, sì, sì. Mario! Mario, che sei il numero uno, dai! Oh, ma che? Dimmi, Giuseppe. Ma perché se ne sono andati al circo davvero? Avvio, a vedere gli animali. Stiamo di bianco, è un goccio di rosso, cambio! Eccolo, eccolo, eccolo, Giuseppe, ecco a Mario, vedi, vedi, Mario si fa ascoltare. Dai, non ho l'altro adesso che l'abbiamo tirato fuori, vengo, vengo, vengo! Tiralo, tiralo, tiralo! Su, su che andiamo, su che andiamo! Ah, oggi già si sta divertendo con baracchino nuovo, già. Ah, la nostra che te dice, così ti piace a te, vero? Mario, senti, Mario, vedi un pochino, senti come rola questa frequenza. Ma com'è che ci sono amici che ti trattano bene? Sino a tutto! Guarda, tutti mi vogliono bene a me, Mario. Oh, non lo so perché, Mario Romanicotto pure io. Però tutti mi vogliono bene, non lo so pure io. Perché hai provato una greffa di gente toga. Si è ricapitato una canata di tu. Adesso che si è reso in quale settimana ti è rimasto con Panassi. Manica di vigliacchi, intanto io raggio comparato, non posso mettere le connessioni. Ho comprato anche lo spazzolino con lentini in acciaio per pulire il piede, no, l'ho fatto tutto bello, come vedi la voce come passa più liscia adesso. Bene, va benissimo. Diciamo che rulla in una maniera ottimale adesso il ragazzo, eh? Rosa! Hai visto? Confermi? Positivo, positivo, accento, bella, bella radio, sì. Complimenti. Oh, per carità, guarda, cosa è mal di schiena oggi, è terribile. Ah, non lo so, che cos'è? O è la zappa o il picco questa cosa qui? Caparoggi. Stanchezza, con la stanchezza, Gigi. Lo fa, lo fa. Per Paolo, per Paolo, per Paolo, vieni fuori. Eia! Eccolo, prendilo qua lì. Guidalo, guidalo, guidalo, guidalo, vai qua! Ma chi è che viene in divinità tra i segni, però? Come? Movimento ce n'è? Sì, la voglia. Senti tre macchine in divinità? No, no, è pieno. Ecco, anda bene, meta. Meglio così vuol dire che l'economia sta continuando a girare nonostante tutto. Tutti i campi sono finiti, che le crisi. Ah, i ristoranti sono tutti pieni, le pizzerie sono tutte piene. No, il circo già chiuso. vedere loro. Ecco, ma ho l'impressione che non stia facendo molti affari quel circo, ecco, sarà impressione mia, ancora non ci sono andato, perché ho paura io di entrare lì. Come stamattina ho visto il mattino arrivare il monte del mattino. dirla. E fa, noi abbiamo avuto uno Yorkshire con Terrier. Grazie a Dio la bellezza di 14 anni. Tutto bene, tutto quello che vuoi. Mi mancava solo la parola. Sono le parole che bisogna sentire da uno che rispetta gli animali e magari ce le può. cane, lo voglio bene come un figlio e lo tratto bene. Tutto quello che gli si può dare, gli si dà, perché alla fin fine poi ti affezioni e diventa una cosa di famiglia. Quello che non mi dà fastidio sono le persone che picchiano gli animali. Se tu l'animale non lo vuoi tenere, non lo devi tenere, è inutile che tu lo tieni per pestare l'animale, non va bene queste cose, non vanno per niente bene. Hai capito? È così. E dai, fai che, perché l'impegno, se lo prendi, come ha detto anche Paolo poco fa, l'impegno va portato sino in fondo, poi che ci siano scuse, non ci siano scuse, perché una cosa è quando sono piccolino, che bellino, sembrano giocattolini, ecco, quando cominciano a diventare grandetti, allora chissà perché cominciano a venire fuori tutti i problemi. Non vedo i problemi. Guarda, una cosa dico io, che l'animale è come Cristiano. Quando è piccolo, problemi piccoli. Quando sono grandi, problemi grandi. Tutto qua. Bisogna saperli amministrare i problemi. Capito? Tutto qua. Perfettamente d'accordo con te. Vediamo un pochino che si dice in quel di Piazza di Segni su ragazzi. Chiude le trasmissioni. Ciao ciao, buonanotte.